Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. La convalescenza è una purificazione, è un rinascimento. Non mai il senso della vita è soave come dopo l'angoscia del male, e non mai l'anima umana più inclina alla bontà e alla fede come dopo aver guardato negli abissi della morte. Comprende l'uomo nel guarire che il pensiero, il desiderio, la volontà, la coscienza della vita non sono la vita. Qualche cosa è in lui più vigile del pensiero, più continua del desiderio, più potente della volontà, più profonda anche della coscienza. Ed è la sostanza, la natura dell'essere suo. Comprende egli che la sua vita reale è quella, dirò così, non vissuta da lui, è il complesso delle sensazioni involontarie, spontanee, inconscienti, istintive, è l'attività armoniosa e misteriosa della vegetazione animale, è l'impercettibile sviluppo di tutte le metamorfosi e di tutte le rinnovellazioni. Quella vita, appunto, in lui compie i miracoli della convalescenza, richiude le piaghe, ripaga le perdite, riallaccia le trame infrante, rammenda i tessuti lacerati, ristaura i congegni degli organi, rinfonde nelle vene la ricchezza del sangue, riannoda sugli occhi la benda dell'amore, rintreccia d'intorno al capo la corona dei sogni, riaccende nel cuore la fiamma della speranza, riapre le ali alle chimere della fantasia. Dopo la mortale ferita, dopo una specie di lunga e lenta agonia, Andrea Sperelli ora a poco rinasceva, quasi con un altro corpo e con un altro spirito, come un uomo nuovo, come una creatura uscita da un fresco bagno leteo, immemore e vacua. Parevagli d'essere entrato in una forma più elementare. Il passato, per la sua memoria, aveva una sola lontananza. Come per la vista il cielo stellato è un campo eguale e diffuso, sebbene gli astri siano diversamente distanti. I tumulti si pacificavano, il fango scendeva al limo, l'anima facevasi monda, ed egli rientrava nel grembo della natura madre, sentivasi da lei maternamente infondere la bontà e la forza. Ospitato da sua cugina nella villa di Schifanoia, Andrea Sperelli si riaffacciava all'esistenza, in cospetto del mare. Poiché ancora in noi la natura simpatica persiste, e poiché la nostra vecchia anima, abbracciata dalla grande anima naturale, palpita ancora a tal contatto, il convalescente misurava il suo respiro sul largo e tranquillo respiro del mare. Ergeva il suo corpo a similitudine dei validi alberi, serenava il suo pensiero alla serenità degli orizzonti. A poco, in questi ozi intenti e raccolti, il suo spirito si stendeva, si svolgeva, si dispiegava, si sollevava dolcemente come l'erba premuta in sui sentieri. Diveniva infine verace, ingenuo, originale, libero, aperto alla pura conoscenza, disposto alla pura contemplazione. Il giovine, disteso all'ombra, o addossato a un tronco, o seduto su una pietra, credeva sentire in sé medesimo scorrere il fiume del tempo, con una specie di tranquillità catalettica. Credeva sentir vivere nel suo petto l'intero mondo, con una specie di religiosa ebrietà. Credeva possedere l'infinito. La vista a poco mutavaglisi in visione profonda e continua. I rami degli alberi sul suo capo gli parevano sollevare il cielo, ampliare l'azzurro, risplendere come corone di immortali poeti. Ed egli contemplava ed ascoltava, respirando col mare e con la terra, placido come un dio. Dov'era mai tutte le sue vanità e le sue crudeltà? E i suoi artifici e le sue menzogne? Dov'erano gli amori e gli inganni e i disinganni e i disgusti e le incurabili ripugnanze dopo il piacere? Dov'erano quegli immondi e rapidi amori che gli lasciavano nella bocca come la strana acidezza di un frutto tagliato con un coltello d'acciaio? Egli non si ricordava più di nulla. Il suo spirito aveva fatto una grande renunziazione. Un altro principio di vita entrava in lui. Qualcuno entrava in lui, segreto, il quale sentiva la pace profondamente. Egli riposava, poiché non desiderava più. Ma questo periodo di visioni, di astrazioni, di intuizioni, di contemplazioni pure, questa specie di misticismo buddistico e quasi direi cosmogonico, fu brevissimo. A poco egli incominciò a riprendere coscienza di se stesso, a ritrovare il sentimento della sua persona, a rientrare nella sua corporeità primitiva. Un giorno, nell'ora meridiana, mentre la vita delle cose pareva sospesa, il grande e terribile silenzio gli lasciò veder dentro d'improvviso abissi vertiginosi, bisogni inestinguibili, indistruttibili ricordi, cumuli di sofferenza e di rimpianto. Tutta la sua miseria di un tempo, tutti i vestigi del suo vizio, tutti gli avanzi delle sue passioni. Da quel giorno una malinconia pacata ed eguale gli occupò l'anima ed egli vide in ogni aspetto delle cose uno stato dell'anima sua. Il paesaggio divenne per lui un simbolo, un emblema, un segno, una scorta che lo guidava attraverso il labirinto interiore. Segrete affinità egli scopriva tra la vita apparente delle cose e l'intima vita dei suoi desideri e dei suoi ricordi. Chiare marine di settembre, il mare calmo e innocente come un fanciullo addormentato, si distendeva sotto un cielo angelico di perla. Talvolta appariva tutto verde, del fino e prezioso verde di una malachite, e sopra le piccole vele rosse somigliavano fiammelle erranti. Talvolta appariva tutto azzurro, di un azzurro intenso, quasi direi araldico, solcato di vene d'oro, come un lapislazzuli, e sopra le vele istoriate somigliavano una processione di stendardi e di gonfaloni e di palvesi cattolici. Anche talvolta prendeva un diffuso luccicore metallico, un color pallido di argento misto del color verdiccio di un limone maturo, qualche cosa di indefinibilmente strano e delicato, e sopra le vele erano pie ed innumerevoli come le ali dei cherubini nei fondi delle ancone giottesche. Il convalescente rinveniva sensazioni obliate della puerizia, quell'impressione di freschezza che danno al sangue puerile gli aliti del vento salso, quegli inesprimibili effetti che fanno le luci, le ombre, i colori, gli odori delle acque sull'anima vergine. Il mare non soltanto era per lui una delizia degli occhi, ma era una perenne onda di pace a cui si abbeveravano i suoi pensieri, una magica fonte di giovinezza in cui il suo corpo riprendeva la salute e il suo spirito, la nobiltà. L'immagine di Elena gli risorse nella memoria. Altre immagini di donne si sovrapposero a quella, si confusero con quella, la dispersero, si dispersero. Egli non riuscì a fermarne alcuna. Tutte parevano sorridere d'un sorriso nemico nel dileguarsi, e tutte nel dileguarsi parevano portar seco qualche cosa di lui. Che cosa? Egli non sapeva. Un avvilimento indicibile lo oppresse, lo gelò quasi un senso di vecchiezza. Gli occhi gli si empirono di lacrime. Una tragica ammonizione gli suonò nel cuore. Troppo tardi. Le dolcezze recenti della pace e della malinconia gli sembrarono già lontane, gli sembrarono un'illusione già fuggita, quasi gli sembrarono essere state godute da un altro spirito, nuovo, straniero, entrato in lui e poi scomparso. Gli sembrò che il suo vecchio spirito non potesse più ormai rinnovellarsi, né risollevarsi. Tutte le ferite che egli senza ritegno aveva aperte nella dignità del suo essere interiore sanguinavano. Tutte le degradazioni che egli senza ripugnanza aveva inflitte alla sua coscienza vennero fuori come macchie e si dilatarono come una lebbra. Tutte le violazioni che egli senza pudore aveva fatte alle sue idealità gli suscitarono un rimorso acuto, disperato, terribile, come se dentro di lui piangessero anime di sue figliuole a cui egli, padre, avesse tolta la verginità. Mentre dormivano, sognando, egli aveva troppo mentito, aveva troppo ingannato, s'era troppo abbassato. Un ribrezzo di sé e del suo vizio l'invase. Vergogna, vergogna. La disonorante bruttura gli pareva indelebile. Le piaghe gli parevano immedicabili. Gli pareva che gli dovesse portarne la nausea per sempre, come un supplizio senza termine. Vergogna, piangeva. Chino sul davanzale, abbandonato sotto il peso della sua miseria, affranto come un uomo che non veda salvezza, e non vedeva le stelle riscintillare a una sul suo povero capo nella sera profonda. Al nuovo giorno egli ebbe un grato risveglio, un di quei freschi e limpidi risvegli che ha soltanto l'adolescenza nelle sue primavere trionfanti. Il mattino era una meraviglia. Tutte le cose vivevano nella felicità della luce. I colli parevano avvolti in un velario diafano d'argento, scossi da un agile fremito. Il mare pareva attraversato da riviere di latte, da fiumi di cristallo, da ruscelli di smeraldo, da mille vene che formavano come il mobile intrico di un labirinto liquido. Un senso di letizia nuziale e di grazia religiosa emanava dalla concordia del mare, del cielo e della terra. Egli respirava, guardava, ascoltava, un poco attonito, nel sonno. La sua febbre era guarita. Egli aveva chiuso gli occhi nella notte, cullato dal coro delle acque come da una voce amica e fedele. Chi s'addormenta al suono di quella voce ha un riposo pieno di riparatrice tranquillità. Neanche le parole della madre inducono un sonno così puro, così benefico, al figliuolo che soffre. I versi della Chimera, nel re di Cipro, antichi versi quasi obliati, gli ritornarono alla memoria, gli suonarono come una lusinga. Vuoi tu pugnare, uccidere, veder fiumi di sangue, gran mucchi d'oro, greggi di cattive femmine, schiavi, altre prede? Vuoi tu far vivere un marmo, ergere un tempio, comporre un immortale inno? Vuoi Modi, giovine, modi. Vuoi divinamente amare? La chimera gli ripeteva nel cuor segreto, sommessa, con oscure pause. Modi, giovine, modi. Vuoi divinamente amare? Egli un poco sorrise e pensò: amare chi? L'arte? Una donna? Quale donna? Elena gli apparve lontana, perduta, morta, non più sua. Le altre gli apparvero anche più lontane, morte per sempre. Egli era libero, dunque. Perché mai avrebbe di nuovo seguita una ricerca inutile e perigliosa? Era in fondo al suo cuore il desiderio di darsi liberamente e per riconoscenza a un essere più alto e più puro. Ma dov'era questo essere? L'ideale avvelena ogni possesso imperfetto. E nell'amore ogni possesso è imperfetto, è ingannevole. Ogni piacere è misto di tristezza. Ogni godimento è dimezzato. Ogni gioia porta in sé un germe di sofferenza. Ogni abbandono porta in sé un germe di dubbio. E i dubbi guastano, contaminano, corrompono tutti i diletti. L'arte, l'arte, ecco l'amante fedele, sempre giovine, immortale, ecco la fonte della gioia pura, vietata alle moltitudini, concessa agli eletti, ecco il prezioso alimento che fa l'uomo simile a un dio. Come aveva egli potuto bevere ad altre coppe, dopo aver accostato le labbra a quell'una? Come aveva egli potuto ricercare altri gaudii dopo aver gustato il supremo? Come il suo spirito aveva potuto accogliere altre agitazioni dopo aver sentito in sé l'indimenticabile tumulto della forza creatrice? Come lo suo spirito aveva potuto posare e lascivire sui corpi delle femmine dopo aver sentito e rompere dalle dita una forma sostanziale? Come infine i suoi sensi avevano potuto indebolirsi e pervertirsi nella bassa lussuria, dopo essere stati illuminati da una sensibilità che coglieva nelle apparenze le linee invisibili, percepiva l'impercettibile, indovinava i pensieri nascosti della natura? Un improvviso entusiasmo li invase. Ma se la mia intelligenza fosse decaduta, se la mia mano avesse perduta la prontezza, se io non fossi più degno! Fu per convalescente una specie di panico. Egli si strinse le tempie fra le palme e rimase alcuni istanti sotto l'urto di quel pensiero spaventevole, sotto l'orrore di quella minaccia. Come annientato, meglio, meglio morire. Non mai come in quel momento aveva sentito il divino pregio del dono. Non mai come in quel momento la scintilla gli era parsa sacra. Tutto il suo essere tremava con una strana violenza al solo dubbio che quel dono potesse distruggersi, che quella scintilla potesse spegnersi. Meglio morire. Levò il capo, scosse da sé ogni inerzia, discese nel parco, camminò lentamente sotto gli alberi. In un luogo favorito, che era una specie di lucus minimo in signoria di un'erma quadrifronte, intenta a una quadruplice meditazione, egli sostò e si mise a sedere sull'erba, con le spalle appoggiate alla base del simulacro, con la faccia rivolta al mare. I versi di Salmace nella favola d'Ermafrodito gli vennero alla memoria. La sua anima si empì tutta di una musica, di rime e di sillabe ritmiche. Egli gioiva. Quella spontanea, improvvisa agitazione poetica gli dava un inesprimibile diletto. La magia del verso gli soggiogò di nuovo lo spirito. Andrea, nel comporre, studiava se medesimo, curiosamente. Non aveva fatto versi da gran tempo. Quell'intervallo d'ozio aveva nociuto alla sua abilità tecnica? Gli pareva che le rime uscenti a mano dal suo cervello avessero un sapor nuovo. La consonanza gli veniva spontanea, senza che egli la cercasse, e i pensieri gli nascevano rimati. Così componeva, or rapido or lento, con un diletto non mai provato. Quando egli ebbe condotti a termine 4 sonetti, trasse un respiro e li recitò senza voce, con un'enfasi interiore. Quindi scrisse i 4 sonetti sulla base quadrangolare dell'erma, su ogni faccia uno, in quest'ordine. Erma quadrata, le tue 4 fonti sanno mie novità meravigliose? Spirti cantando dalle sedie ascose partono del mio cor leggeri e pronti. Il cor mio prode tutte impure fonti serrò, cacciò da sé tutt'altre cose impure, tutte fiamme obbrobriose domò, ruppe all'assedio tutti i ponti. Spirti cantando salgono, ben odo io l'inno e inestinguibile possente del periglio di me mi prende un riso. Pallido sì, ma come un re io godo sentir nel core l'anima ridente, mentre il già vinto mal rimiro fiso. L'anima ride di amor suoi lontani, mentre fiso rimiro il mal già vinto, che in quei di fuoco intrighi avea mi spinto, come in boschi nudriti da vulcani. Or nel gran cerchio dei dolori umani entra novizia in veste di giacinto, dietro lasciando il falso laberinto, ove i belli ruggian mostri pagani. Non più sfinge con unghie auree la branca, non gorgone la fa pietra restare, non sirena per lunga ode l'incanta. Alta in sommo del cerchio, un'assai bianca donna con atto di comunicare, tien fra le pura dita l'ostia santa. Ella, fuor dell'insidie, fuor dell'ire, e fuor dei danni, sta pacata e forte, come colei che può fino alla morte sapere il male senza quel soffrire. O voi che fate tutti i venti a ulire, che avete in signoria tutte le porte, io metto a vostri piedi la mia sorte, Madonna, nel vogliate consentire. Folgora nella pura mano vostra quell'ostia deseata come un sole, non vedrò dunque il gesto che consente? Ed ella che è benigna che si prostra, comunicando dice le parole, ho offerto te il tuo ben, anzi è presente. Io dice son l'innaturale rosa generata dal sen della bellezza, io son che in fondo la suprema ebbrezza, io son colei che esalta e che riposa. Ara compianti, anima dolorosa per mietere con canti d'allegrezza, dopo un lungo dolor la mia dolcezza, passerà di dolcezza ogni altra cosa. Tal sia, Madonna, e dal mio cor disgorghi gran sangue, e i fiumi scorrano sul mondo, e il dolore immortal pur gli rinnovi, e me stesso travolgano quei gorghi, me coprano, ma veda io dal profondo la luce che ha la invitta anima piovi.